Avete ascoltato un breve estratto dell'ultimo libro di Mario Melazzini. Il libro si intitola Ma che cosa ho di diverso? Edizioni San Paolo. Mario Melazzini è malato di sclerosi laterale amiotrofica, è medico e presidente dell'AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. E Mario Melazzini è un mio caro amico ed è in linea con noi. Ciao Mario. Ciao Nico, tutto bene? Bene Mario, senti, questo è il tuo secondo libro e io credo che per un malato trovare le parole giuste per parlare della propria malattia sia difficile, ma credo anche in un certo senso liberatorio, terapeutico, forse può anche aiutare a dare un significato a quello che si sta vivendo. Assolutamente sì, anche se il libro non tratta solo di della mia malattia, sono alcune riflessioni che hanno spinto un uomo prima di tutto malato a riflettere su alcune condizioni, sulle condizioni di vita che possono essere in un certo momento condizionate dall'insorgersi di una malattia grave come ad esempio la sclerosi laterale amiotrofica. Riflessioni che sicuramente al malato fanno benissimo, all'uomo ancor meglio. Mario, quindi un libro non solamente dedicato alle persone malate di patologie progressivamente debilitanti, ma soprattutto dedicato alle persone sane per riflettere sul dolore, la malattia e la vita. Mario, grazie, un abbraccio. Grazie a te. Allora vi ricordo il libro di Mario Melazzini, Ma che cosa ho di diverso? Edizioni San Paolo. Per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta Carbone. Buona giornata.